La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Fiabe, favole, racconti, leggende. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net. Alla ricerca del sogno perduto. Una fiaba scritta e messa in voce da Gaetano Marino. Nell'antico regno di Capo di Terra, situato nel sud dell'isola di Hycnos, c'era un re di nome Crisponzio. Egli era vedovo e aveva una figlia molto bella che si chiamava Bertina. Re Crisponzio era un buon padre e desiderava tanto veder maritata la propria figliuola, ma non c'era modo di convincerla. Quasi ogni giorno giovani principi di buona casata si presentavano a palazzo per chiedere la mano della principessina, ma lei rifiutava sempre e papà Crisponzio ne soffriva tanto, perché avrebbe desiderato vedersi circondato da tanti nipotini. Bertina intanto si rifugiava tra i suoi libri. Soprattutto amava le storie d'avventura. In particolare adorava quella di un nobiluomo che, a forza di starsene rinchiuso nella sua biblioteca a leggere romanzi cavallereschi, si convinse d'essere egli stesso un cavaliere. Iniziò a compiere gesti visionari e assurdi, tanto da apparire folle agli occhi della gente. In fondo, lottare, combattere contro mulini a vento, scambiati per giganti, non era poi tanto savio. Ma quelle dei libri sono storie che regalano viaggi straordinari di fantasia, storie dove il tempo non ha tempo, ed è per questo che restiamo incantati. Ma la realtà è ben altra cosa. Per la principessina Bertina il tempo scorreva inesorabile, e più scorreva più si sentiva confusa da quel richiamo misterioso che rende tutti gli esseri viventi rincitrulliti. Quel richiamo si chiama amore. Venne un giorno in cui re Crisponzio ordinò ai suoi mercanti di fiducia di recarsi in un paese lontano per concludere alcuni affari. Il giorno prima della partenza, il re domandò a Bertina se desiderasse qualche dono da ricevere al ritorno della spedizione. La principessina rispose che aveva bisogno della notte per pensarci. Appena il sole tramontò, Bertina si chiuse nella sua camera, portando con sé un libretto antico, il cui titolo della copertina di cuoio, oramai quasi sbiadita, era «Alla ricerca del sogno perduto». Oltre il libretto, Bertina portò in camera una piuma d'oca, il calamaio ed un foglio. La mattina dopo, la principessina consegnò al padre il foglio con una lista di doni. Essa conteneva un grosso cavolfiore con le radici, un otre di miele amaro, un sacco di pinoli sgusciati, uno di semi di girasole e uno di lino, un fascio di fiori di senape, una botte d'acqua di rose, due rubini, un tartufone bello grande, una pietra d'ambra, una collana di coralli bianchi e un gomitolone di seta di bisso filato. Dopo aver letto la lista, il padre rimase sorpreso, ma tanto amava la propria figliola che ordinò ai suoi mercanti di procurare quanto ella desiderasse. Quando la spedizione tornò dal viaggio, i mercanti consegnarono alla principessina un grande cesto contenente tutti i doni della lista. Bertina, che era rimasta notti e notti sveglia ad aspettare il ritorno dei mercanti, prese il cesto e lo portò nella sua stanza. Poi mise il paletto perché nessuno entrasse. Appena rimasta sola, la ragazza stette ferma a guardare il cesto e si mise a pensare. E dopo un po' si mise all'opera, seguendo le istruzioni del libretto alla ricerca del sogno perduto che aveva imparato a memoria nei giorni di attesa. Fuori intanto la luce del giorno aveva lasciato il posto al buio della sera e Bertina si sentiva molto stanca per le notti insonni trascorse ad aspettare i doni. Le sfuggì un grande sbadiglio, poi un altro e un altro ancora, finché, con il pensiero di riprendere la sua opera al risveglio, si addormentò profondamente. Il giorno dopo Bertina aprì gli occhi e scoprì che quella era una mattina che non assomigliava alle altre. Le finestre erano serrate, eppure vi era nella stanza una luce strana, intensa, come se tutti i colori dell'arcobaleno si fossero dati appuntamento lì dentro. L'aria era impregnata di profumi sconosciuti e ogni cosa stava come sospesa a mezz'aria. Pareva che non ci fossero pareti, né pavimento e né soffitto. Tutto dava l'impressione di stare in un luogo misterioso e magico. Bertina si alzò felice perché sentiva quello d'essere un giorno particolare. Qualcosa di insolito stava per accadere. E queste sono sensazioni che solo i grandi appassionati di storie fantastiche possono provare. Insomma, senza nemmeno lavarsi né fare colazione, la principessina cominciò a lavorare alla sua opera seguendo passo passo le istruzioni imparate. In una grande casseruola di rame mise i pinoli sgusciati insieme ai semi di girasole e di lino, vi unì i fiori di senape e amalgamò con il miele amaro perché il tutto avesse profumo della terra fresca. Quando l'impasto fu pronto, rivestì con esso le radici del cavolfiore e lentamente plasmò con maestria una giovane figura umana. Immerse il tutto in un bagno d'acqua di rose affinché divenisse morbido, compatto e profumato. Per concludere l'opera, prese i due rubini e fissò nel corimbo testa del cavolfiore gli occhi. Il tartufone servì per il naso, la pietra d'ambra per la bocca, con i coralli bianchi stese due file di denti bianchissimi e la seta di bisso filato diventò una folta chioma di capelli luminosi che odoravano di mare. Qualche attimo ancora e avvenne la magica metamorfosi. Davanti a Bertina stava un bel giovane. La principessina lo guardò con emozione, ma poi si accorse che gli mancava l'abito e ovviamente doveva essere un abito da principe, ma niente di più facile. Bertina si guardò intorno e il suo sguardo cadde sul broccato dai tanti colori di seta d'Oriente che ricopriva il letto della sua stanza. Lo tirò via e con un po' di ingegno cucì un abito elegante dai tanti colori. Quando il giovane lo indossò, pareva un bel pasticcino, ragione per cui Bertina lo chiamò Principe Dolcino e rimase ancora ad ammirarlo con gli occhi lucidi e increduli per quanto le fosse venuto bene. Eppure mancava ancora qualcosa al suo principe. Era bello ed elegante, certo, ma il viso pareva spento. Non mostrava stupore, nessun sentimento o passione, che sono poi il fuoco della vita. L'amore, ecco sì, in quella statua mancava l'amore. L'amore. E come creare amore se Bertina ancora non sapeva cosa fosse l'amore? Prese subito il suo libretto e cercò il capitolo dove si trattava dell'amore e lesse quelle poche parole. Perché si possa amare, bisogna essere stati amati. La principessa sapeva d'aver sempre ricevuto tanto amore da chi le voleva bene. Dunque, solo lei poteva dare amore al suo dolcino. Ma come? L'amore non è una ricetta che puoi tirare fuori seguendo le istruzioni di un libretto. Si sa solo d'essere stati amati, oppure no? Bertina sentì il proprio cuore struggersi. Il viso si bagnò di lacrime che cascavano come grappoli. Il suo corpo tremò, sospirando. Poi guardò il suo principe e vide nel viso quanto egli fosse solo. Bastò un attimo e in uno slancio Bertina abbracciò la sua opera. Appena l'ebbe stretto a sé, il suo dolcino tremò tutto, sospirò e finalmente i cuori dei due innamorati pulsarono in un unico battere. Fu allora che i due si accorsero che non potevano stare più l'uno senza l'altro. A quella forza di emozioni e di meraviglia, Dolcino aprì la bocca per dichiarare il suo amore alla principessina Bertina, ma, ahimè, quel che si sentì fu solo un grugnito, sordo e confuso. Dolcino doveva essere tanto emozionato da non riuscire a parlare, capita, ma quel grugnito si faceva sempre più sordo e profondo. E Dolcino? Restò con la bocca spalancata, al che Bertina levò subito lo sguardo e con grande stupore vide che al giovane principe mancava la lingua. La lingua? Non c'era proprio! E com'era possibile? Bertina si guardò intorno. Cosa aveva dimenticato? Tutti gli ingredienti erano stati dosati e impastati secondo le istruzioni studiate per giorni e giorni. La principessina prese subito in mano il libretto e rilesse le istruzioni, confrontandole con la lista consegnata al padre. Cavolfiore? Sì. Miele amaro? Sì. Pinoli? Sì. Semi di girasole, semi di lino? Fiori di senape? Sì. Coralli bianchi? Sì. Acqua di rose, due rubini, tartufone, sì, sì, pietra d'ambra, Setta di Bisso, sì, e... E questo? Capitone. Non c'è. Bertina rimase un attimo interdetta. No, non può essere. Il capitone. O per bacco di bacca dimenticata. Il capitone mi sono scordata. La lista. Dove ho messo la mia lista? Bertina cercò la lista, diede uno sguardo rapido e restò in silenzio, con gli occhi sgranati, poi disse: Non c'è sulla mia lista. Poi guardò meglio e vide una postilla in fondo alle istruzioni. P.S. Attenzione, una volta impastato e montato il proprio amore, niente si potrà più modificare. Ancora un attimo di silenzio. Pazienza, si disse Bertina. Niente capitone? Niente lingua? E che sarà mai? Non è poi così importante che il mio dolcino parli. Lo farò io, per lui. Basterà amarsi. Bertina prese per mano il suo dolcino e, felice come non mai, levò rapida il paletto dalla porta, uscì dalla stanza e condusse il suo principe dal padre. Quando furono davanti al re, Bertina prese la parola. Padre mio, onorato re, voi desideravate che io trovassi uno sposo? Eccolo! Il suo nome è Dolcino, principe da Mapefosca. Egli purtroppo non può parlare, perché è nato senza lingua. Ma io lo amo, ed egli ama me. Dolcino fece un grande sorriso che si illuminò grazie a quei denti bianchissimi e mosse la testa in segno di approvazione. Chiedo dunque a voi, papà Crisponzio, continuò Bertina, la vostra approvazione con il permesso di celebrare il nostro matrimonio. Re Crisponzio, felice per la sua figliuola e ammirando la bellezza e la tenerezza di Dolcino, acconsentì. Fu organizzata, prima d'ogni cosa, la festa del fidanzamento, alla quale vennero invitati re e regine d'altri regni. Tra gli invitati ci stava pure la regina Euriale, tristemente conosciuta come donna malvagia e strega cattiva. Si diceva che per tenere tutto il regno nelle sue mani avesse trasformato il marito re in una talpa. Tanta era la potenza della perfida Euriale che il re, per la paura di un qualche maleficio, fu costretto ad invitarla. Il principe Dolcino, però, era stato appena forgiato e non sapeva della malvagia Euriale, cosicché la principessina Bertina ordinò alle guardie di sorvegliare la regina strega. E la festa cominciò, tra canti e balli. Bertina era indaffarata nel trattenere gli invitati, seppure di tanto in tanto controllasse con lo sguardo il suo amato principe. Ma quando la strega Euriale vide il bel Dolcino, ne rimase ammirata e ovviamente lo volle tutto per sé. Nella gioia della festa, tra la confusione di grida e risa di tutti gli invitati, Euriale fissò da lontano, con il suo sguardo malefico, gli occhi di Dolcino, privandolo di ogni volontà. Poi chiamò con la mente uno sciame di tafani invisibili e li fece intrufolare tra le armature delle guardie sorveglianti, e al suo ordine gli insetti punsero le guardie, facendo perdere loro la memoria. La principessina Bertina, certa che il suo Dolcino fosse sorvegliato a dovere, ebbe un attimo di distrazione. Quell'attimo bastò perché la perfida Euriale si dirigesse verso l'uscita della grande sala, seguita da Dolcino. I due salirono sulla carrozza della strega e scomparvero. Intanto la principessina Bertina, non vedendo più nella sala il suo dolcino, iniziò a cercarlo e, dopo aver interrogato le guardie, che si mostrarono stupite alla richiesta della principessina, ebbe il sospetto che al suo amato dolcino fosse accaduto qualcosa di grave. Sgranò gli occhi e chiamò il suo amato con un grido disperato. Nessuno rispose. Solo il silenzio fu la sentenza di quel che tutti sospettarono immediatamente. Dov'era la regina Euriale? Ovviamente non la trovarono, e il sospetto divenne certezza. La strega aveva rapito il principe Dolcino. Il padre re Crisponzio disperò anche lui e ordinò subito che un'armata di cavalieri andasse in giro per il regno a cercare il principe rapito. Ma Bertina si oppose. «No, no, padre, vi prego. Io ho trovato il mio dolcino ed è giusto che sia io ad andare a cercarlo. Vi prego, lasciatemi partire!» Il re apprezzò il coraggio di sua figlia e acconsentì. Bertina si vestì da penitente e, come un mendicante, andò in giro per il regno a cercare il suo dolcino. Cammina, cammina. Bertina giunse al confine di Capo di Terra, situato quasi vicino al mare. Trovò un recinto dietro il quale stava un giardino rigoglioso pieno di frutti luccicosi. Un ognomo, vestito di bianco, la cui pelle era del colore dell'ambra, stava voltato di spalle mentre accudiva il giardino, tirando su con una zappa alcune zolle di terra. In verità non aveva nessuna zappa in mano, ma era come se ce l'avesse. «Ti chiami Bertina, vero?» domandò lo gnomo. Bertina si chiese come poteva lo gnomo, stando di spalle, averla vista, e soprattutto come sapeva il suo nome. Lo gnomo smise di tirare su zolle di terra, posò su una panca quella che sarebbe dovuta essere una zappa, si voltò e disse: «Tu sei la principessina Bertina, figlia del re Crisponzio, e vai per il mondo vestita come una mendicante in cerca del tuo dolcino, principe d'Amape Fosca. Vieni, entra e non avere paura». Bertina oltrepassò il recinto. Mentre si avvicinava, lo gnomo vide che i frutti di quel giardino erano tutti dorati. «Il mio nome è Gnomo Marsia e vengo dal mare. Questo è il mio giardino di frutti d'oro. Ti piacciono?» Lo gnomo staccò una grande pesca d'oro e la donò a Bertina. «Tieni, prendila e vai verso il mare. Poco prima di arrivare troverai un piccolo stagno nel quale dovrai immergere la pesca d'oro. Essa si aprirà in due parti uguali. Prendi solo il nocciolo e lascia sulla riva le due metà della pesca. Poi vai al mare aperto e, quando vi sarai giunta, rompi con un sasso il nocciolo e, mi raccomando, nello stesso momento esprimi un desiderio. Se farai come ti dico, sono certo che troverai quel che cerchi». Bertina ringraziò Gnomo Marsia e si mise subito in cammino alla ricerca del piccolo stagno. Quando lo trovò, vi immerse la pesca d'oro ed essa si aprì in due parti. Poi prese il nocciolo e, lasciando sulla riva dello stagno le due parti della pesca, si diresse verso il mare. Arrivata sulla spiaggia, prese un sasso e ruppe il nocciolo, esprimendo un desiderio. E come per incanto apparve sulla risacca un grosso capitone. «Oh, principessa Bertina, il mio nome è Capitone Tritone e ti sono grato per aver sciolto l'incantesimo. Ora prendimi con te e portami al piccolo stagno dove troverai le due metà della pesca d'oro che vi hai lasciato. Quando le avrai in mano, dirai queste parole: chi sempre va, sempre smarrisce. L'acqua che scorre non può vedere lassù, e a chi vi rimane appare il sogno d'amore. Solo allora rivedrai il tuo dolcino. In quanto a me, che son Capitone Tritone, sai già cosa devi fare. Ma corri, presto, altrimenti mi dissecherò e non servirò più a nulla!» Bertina prese Capitone Tritone e corse rapida verso il piccolo stagno. Quando vi arrivò, cercò le due metà della pesca, ma, ahimè, non c'erano più. «Mi sa che la principessa Bertina sta cercando queste?» disse una voce improvvisa. Era la strega regina Euriale a parlare di fianco ad un cannetto che fiancheggiava il piccolo stagno e con in mano le due metà della pesca d'oro. La strega volse lo sguardo perfido verso il principe Dolcino, che teneva in catene al suo fianco come fosse una preda di caccia. «O forse cerchi lui, il tuo principino?» Bertina vide il suo dolcino e lo chiamò. «Mio principe Dolcino, sono io, Bertina!» Ma Dolcino non poté vedere la sua Bertina, perché i suoi occhi erano completamente spenti. Intanto Capitone Tritone, che stava quasi per dissecarsi, rivolse il suo sguardo alla principessina. «Bertina, ti prego, Bertina, ti prego, bagnami con l'acqua dello stagno e fallo subito, perché sento che sto per soffocare!» Bertina corse rapida alla riva del piccolo stagno e bagnò il capitone. «No, ferma!» gridò Euriale, precipitandosi verso Bertina. Ma Capitone Tritone aveva già ripreso le forze e s'era trasformato in un enorme serpente anaconda, e rapido s'avventò su Euriale, avvolgendola tra le spire. «Sciocca principessa, guarda che hai fatto!» urlò Euriale. L'anaconda stava trascinando Euriale verso lo stagno. «Il tuo dolcino, che tengo incatenato, mi seguirà fin laggiù, in fondo allo stagno, e non avrà scampo!» «No, Tritone, fermati! E tu, perfida strega, lascia andare il mio dolcino, non puoi portarlo con te!» gridò Bertina. «Non posso? Ma che dici? Ah, ah, ah, ah! Povera sciocchina! Io posso tutto, quando voglio e come voglio! Il tuo principino non potrà tornare! E sai perché? Perché egli non è mai esistito! Mai! Ah, ah, ah, ah!» E l'anaconda trascinò Euriale Dolcino nel fondo del piccolo stagno. Poi più niente. Rimase solo il silenzio e il pianto disperato di Bertina, che si domandava che cosa volesse dire la strega Euriale con quelle parole. Perché il suo dolcino non era mai esistito? Con la disperazione nel cuore e le tante domande, la principessa Bertina s'avviò sconsolata verso casa. Nella strada del ritorno ritrovò il giardino dei frutti d'oro. Gnomo Marsia stava a tirare su, come sempre, zolle di terra. Alla vista di Bertina, lo gnomo si fermò e disse: «Principessina cara, so quel che ha fatto la perfida Euriale, ma è bene e giusto che tu sappia la verità». «Quale verità?» domandò Bertina con lo sguardo di chi ha paura di sapere. «Il tuo dolcino non è mai esistito. Euriale non ha mentito», sentenziò gnomo Marsia. «Non è possibile. Mio padre, il re, tutti gli invitati alla festa del fidanzamento lo hanno visto. Io l'ho creato, l'ho impastato e forgiato con le mie mani. Ne sei sicura?» «Sì, so d'averlo fatto». «Dimmi, Bertina, di quella mattina quando stavi nella stanza dove credevi d'aver forgiato il tuo dolcino, cosa ricordi?» Bertina rimase un momento a pensare e poi disse: «Ma sì, certo, lo ricordo bene. Ho visto intorno a me una grande luce con i colori dell'arcobaleno e la camera era piena di profumi. Non c'erano pareti e tutto stava sospeso a mezz'aria. Era come stare in un mondo di magia, un sogno, un meraviglioso sogno. E seguì a chiedere gnomo Marsia. Ma Bertina rimase senza parole. Gnomo Marsia la guardò con tenerezza. «Un sogno, dolce ragazza», proseguì gnomo Marsia. «Tu non sei mai uscita dalla tua stanza. Sei ancora lì, stesa sul tuo letto, che dormi. Il tuo dolcino è il desiderio di un lungo e dolce sogno. E nei sogni, si sa, tutto può accadere». «Tutto finito allora». «Un inganno», disse Bertina sconsolata. «No, principessina, nessun inganno sta nei nostri sogni. Bisogna solo saperli vedere dentro. Essi ci aiutano a comprendere i nostri desideri, chi siamo e cosa meritiamo. E ora, mia dolce Bertina, è giunta l'ora di lasciare questo sogno e di svegliarti. Su, là fuori, la vita ti aspetta perché possa comprendere e trasformare i tuoi sogni in realtà. Buona fortuna e che il destino ti sia favorevole». Avete ascoltato Parole di storie, fiabe, favole, racconti, leggende, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net